ei venga a me dinanzi in virtù dei tuoi preci servili a comandai. Baciarti il piede prima di ispirar l'alma, signor, Manlio ti chiede. Manlio tosto fra cempi a me si ascolto. Di questo cuore